stai suonando la fisarmonica in un angolo, amico mio, sai cantare, non aver paura di sbagliare, amico mio, tu sai volare. Loro sanno solo parlare, amico mio, il pane fresco da quanto tempo non lo mangi, amico mio, la faccia sporca e i calzoni a cambiare, e ora ridi e ora piangi sulla spalla insieme a me. Amico mio, vecchi sorrisi la povertà e i tuoi guadagni, amico mio, la tua allegria, il tuo tabacco e l'anarchia, la libertà solo un sogno e mai nessuno la vorrà, amico mio, questo viale, questo mondo da rifare, la senti ora quest'aria fresca e i cattolici che vanno a messa, questa stagione se ne sta andando e noi con lei stiamo invecchiando. Amico mio, non mi lasciare insieme a te, voglio restare.